aspetti. Allora incominciamo con il primo, l'immagine ideale e poi un minimo di introduzione sul problema della pastorale, pratica cura d'anime come scienza oppure arte, oppure si dice scienza e arte, e o. Questo. Allora, sul primo punto, sull'immagine ideale, vengo alle cose essenziali senza tediarvi nel leggere tutto. In sostanza, il progetto Reichenberger, partiamo da Vienna, che è quello con il quale si è scontrato e incontrato lo Zabbeo, è che il pastore d'anime essenzialmente è una religions lehrer. E poi il secondo è un sacer curio. Ecco, queste due. L'era vorrebbe dire insegnante, maestro di religione, no? Ancora, questo è il concetto, non il doctor, quindi non uno che fa disquisizioni, dibattiti, ma uno che ha la didattica, ha capacità pedagogiche, didattiche nel campo religioso. Questo era il modello primo. Poi secondo anche il sacer curio, cioè voleva alludere a questo fatto che rispetto a tutto il ceto impiegatizio, non so se sia primo o secondo grado, comunque non il grado inferiore, cioè quello esecutivo, braccia, non so, quelli che sono gli impiegati inferiori dei municipi, delle province, no, i dipartimenti, i distretti, cioè, ma quelli che sono il grado del cervello, ecco, il pensatoio. Ebbene, a questo stesso livello si trova il sacerdote come sacer curio. Curio fa parte della curia, cioè di questa curia, diciamo, amministrativa, municipale, poi distrettuale, poi anche della corte di Vienna, ecco i vari cappellani e anche il parroco Am Hof, eccetera. Questi sono i modelli. Quindi, guardando all'archetipo, cioè l'archetipo, il punto di riferimento è sempre Cristo, no? Come insomma, lo catturavano, come lo ridipingevano il Cristo, come se lo raffiguravano, perché il punto di riferimento in questi testi è sempre Cristo. Il bonus pastor lo raffiguravano soprattutto come docens. Così, cioè, è curioso in tutti questi testi per giustificare una scelta quello che cioè, la comparazione, il confronto che stabiliscono tra l'esperienza personale di Gesù facere e ecco la traduzione facere. Allora, ma allora se Cristo è l'archetipo, è il modello, non c'è altra alternativa che facile. Oggi che è diviso meglio il campo di azione del sacerdote, allora il primo. Oppure più mistica, eccetera. E poi docere viene dopo, non è necessario, viene dopo. Qui sotto c'è il problema anche del rapporto tra battesimo e catechesi, eccetera. Ecco, questa è l'obiezione che loro facevano. Però i sostenitori di questa tesi, di questa impostazione che era quella della d'altri, di questi centri pensanti, che quando Gesù disse, parlò, disse a loro, battezzando, ocete, perché? Dicono, è evidente, stando alla logica, l'esperienza di Gesù e la logica degli apostoli, era il verbo di Dio, era il logos. La sua illuminazione era dentro, era precedente, era il verbum, il logos en diathetos, nel padre che è diventato proforikos, incarnandosi, era, di quelli che era Gesù. Ma per l'apostolo invece vale, c'è dunque un docete, prima avviene la conoscenza. Perché nell'uomo corrotto c'è l'obnubilatio, c'è l'accecamento, c'è l'ignoranza, ci sono queste torture, errori. Quindi prima c'è l'illuminazione. Allora adesso, tirando le conclusioni, c'è il sacerdote e c'è la gente. Allora, come avviene su questa logica, insomma, il processo? Avviene questo, che non c'è predicazione senza illuminazione. Ecco anche l'idea del Flint era pienamente, insomma, su questa linea, no? È rimasto preso, affascinato da questo progetto. Come può uno predicare, illuminare gli altri se lui nell'ombra, se è cieco? Se lui è nell'oscurità, se lui è ignorante, come può istruire se lui stesso è ignorante? Allora prima c'è l'illuminatio. Di conseguenza, il futuro sacerdote, il futuro pastore d'anime, non può essere che un illuminato, ecco il seminario, no? Seminario generale, agganciato alla facoltà teologica, il dottorato, frintaneum, eccetera. Secondo punto, nella sua attività pastorale non può essere ancora che un illuminato, Flint fonda la rivista, era proprio destinata ai preti per una cultura permanente. Poi andando avanti, tra le sue azioni, cepite facere e traducere, il facere e untas battezza. Il facere, anzitutto, prima di tutto, è una profezia, diciamo, oggi si dice, no? È una illuminazione, si trova, è un Aufklärung, gli dicono sempre, Aufklärung, ritorna sempre, Aufklärung, è una parola ripetitiva, no? Che docere in latino si traduce, questo è. Quindi, anzitutto, lui fa catechismo, predica, tiene conferenze, poi, non so, è anche scrittore, organizza accademie, fonda scuole, scrive libri, non so, questo è il concetto. E di conseguenza, in questa sua seconda operazione, cioè nella prima operazione, è un problema di struttura di un istituto per una cultura superiore, una culturazione che continua, ecco, quindi il problema di contenuti, di metodo, eccetera. Per la popolazione, cioè i destinatari di questa cultura, il problema allora è anche di didattica, cioè tutto questo non è automatico. Erano diffidenti del carisma, tutta questa gente, cioè, oggi dice no, la fascinazione carismatica, no, erano contrari alla magia del carisma, e così non poteva esserci una vera e propria valida, sostanziosa predicazione se non c'era la catechetica, non c'era la pedagogia, non c'era didattica, come discipline che erano, cosa dice, oggi si dice, le discipline complementari. Di fatto, come per l'esegesi biblica, erano le discipline propedeutiche. Senza queste discipline non c'era l'orator sacer, non c'era l'oratore sacro. Ecco, questo è il punto, anche se conosceva il Vangelo, eccetera, no? E di qui tutta la preparazione, questi autori, il Milde stesso, no, un grande autore, Gifschwitz se stesso, scrittore, tutti i catechismi, non ci sono state le scuole catechistiche, e di qui anche l'idea di una cattedra specialistica di scienze della religione, poi la religione ancora adesso, no, anche nelle scuole elementari, il Religionslehrer è un uomo che non può essere mendicante, come da noi ci va spontaneismo, va lì, fa un servizio, poi deve insomma, industriarsi per vivere, no. Deve avere una sua dignità, anche una base economica, perché nella sua vita futura questo chierico possa continuare nello studio, farsi la biblioteca e poi sapere scrivere le prediche, saperle poi anche dire, esprimere, eccetera. Perciò, volendo fare un confronto tra una parrocchia, diciamo, settecentesca veneta di un villaggio rurale, no? Nelle sue strutture anche esterne, cioè la canonica come è fatta, e poi i vari elementi anche architettonici. Allora, noi troviamo nella vecchia canonica il pollaio, la cantina, e poi troviamo l'orto, cioè, diciamo, la piccola azienda che questo parroco gestisce, no? Oppure c'è una specie di rapporto, ho trovato anch'io contratti tra la popolazione e il parroco, perché la popolazione dia in bene di natura il sufficiente giorno per giorno. Quindi questo parroco è un po' il mendicante, no? Oppure è una specie di contadino, ma non contadino illuminato, contadino per la sopravvivenza, per sé. Quindi impastoiato, insomma, negli allevamenti, galline, polli, eccetera, vacche, tutte queste cose, pecore, questa faccenda. Questo è la prima. Le trovate, adesso c'è uno che fa uno studio interessante, uno studio sulle canoniche del Veneto, cioè le strutture che ci sono, è importante, no? Non può mancarci il pollaio, l'orto e la stalla, ecco, è uno, tre elementi. Poi si va nella canonica, c'è la cucina, cucinone grande, con il focolare, e lo studio non c'è, c'è l'archivio, l'archivio. E allora così, adesso io ho fatto fare delle ricerche anche sulle biblioteche dei parroci, no? Sono pochi i paesi con le biblioteche, poche le parrocchie, la biblioteca è inesistente, la scuola non c'è e poi c'è la chiesa, ecco l'altro polo. No? La scuola non c'è. No, non c'è la scuola. Le Pievi soltanto avevano le scuolette tipo umanistico. Mentre, insomma, nell'ipotesi, come viene fuori la canonica, cioè la struttura, come si è? Canonica, biblioteca, libreria, senza polaio, poi chiesa. Ecco, questo è continuo. Cioè una religione del libro, questo è il discorso, questa sarebbe l'immagine nuova, no? Si eliminano tutti quegli aspetti. Quindi il sacercurio, cioè oltre che essere posto a quel livello di dignità, di prestigio, anche pubblico, no, il pastore d'anime, doveva avere anche la dignità economica. E io ho trovato, perché ho fatto delle analisi, c'è qui un saggio, questo religione e società all'iniziano qua, abbozzato, non sono sufficientemente documentato. Il problema è che si sono posti lì a Asburgo, quando dal 15 sono passati nel Veneto, cioè il problema è che ci fosse una rendita fissa per il parroco, cioè qual era l'idea? L'idea che abolendo tutte le forme superstiziose del culto, quindi anche quelle parcelle che venivano fuori da quelle varie forme, non so, dei santi, devozioni, no? Si fa l'elemosina contro i topi, contro i pulci, tutte le malattie, no? Allora i popolani fanno l'elemosina. Ecco, eliminando tutto questo, bisognava trovare una base economica dignitosa. Cioè, era esclusa l'idea, ma anche era escluso il progetto e anche la realtà di un prete mendicante. Questo non ci doveva essere. Ci doveva essere un prete stipendiato con una rendita fissa in due maniere: o congrua dello Stato a tutti i livelli, tutti i servizi che fanno, tutti i servizi, oppure secondo, a livello di una rendita da una base economica immobiliare. Teniamo conto che siamo nell'Ottocento, siamo dentro uno schema di uno Stato, una situata la Boemia e altre zone, prevalentemente fondata su una vocazione economica agrario-rurale, no? Da tener conto. Quindi un beneficio patrimoniale. Tanto volevano forzare la linea su questo punto, di Asburgo, che tutta la serie di leggi del 15 fino agli anni 56-57, fino alle vigilie 58, tutte queste leggi insistono perché quando si parla di ufficio parrocchiale, questo venga inteso come fondamentalmente beneficium, patrimonium. Se non c'è il patrimonium, non c'è nomina, non ci può essere titolare, non ci può essere ufficio. No, qui c'è tutto il problema medievale, no? Rapporto ufficium, beneficium, ma non è quella. L'idea è diversa, cioè che se non c'è quel prestigio, anche questa base economica di dignità che consenta lo sviluppo anche dell'altra, diciamo così, meta e traguardo, allora non ci può essere neanche la parrocchia. Difatti si va verso una restrizione, una decapitazione di curazie, eccetera, eccetera, e una restrizione parrocchiale, però un potenziamento del prestigio parrocchiale. Ma allora da questo parroco, insomma, questi, diciamo, imperiali chiedevano molto di più che non nel Settecento, anche da vescovi come un Barbarigo, molto riformatore, molto esigente. Chiedevano, per esempio, che l'anagrafe fosse a posto, chiedevano che la biblioteca avesse i libri, e andavano a vedere se c'erano i libri sono recenti. Ad Asiago, per esempio, ho visto, ci sono tutti, sono riusciti, dovevano comprarsi i libri. Se facevano le congreghe, dovevano segnare, se andavano a non segnare, volevano avere i compiti scritti, se faceva le prediche, se era puntuale nelle messe, tutte queste cose, no? Ecco, questo è. Quindi Reichenberger punta su questa meta, no? Essenzialmente il sacerdote è un illuminatore, è un illuminato ed un illuminatore, questo è il concetto che ne viene Aufklärer. Questo è il concetto che ne viene fuori. Motivato anche con ragioni di natura biblica, neotestamentaria, risolvendo quell'antinomia, ecco, cepit facet et docere e l'altro è untes docete, in base ad un principio teologico, no, che recupera in fondo il Concilio di Calcedonia, e qui in fuori il Concilio di Calcedonia di Efeso. Ecco, questa è l'idea che ne viene, insomma, che emerge. E allora, per esempio, fa impressione, allora, se è così, è un illuminato, è un illuminatore, questa illuminazione, insomma, a che livello si pone? Ecco, questo è un altro discorso molto difficile. Il filtro non poteva essere, secondo questi autori, se non quello tipico della mentalità fine Settecento. Non so se questo è un altro punto, ma non può essere diversamente. Quindi non può non essere anche erudizione. Non può non essere filosofia moderna, non so se questo è quello. Non può essere se non mediazione, oggi si dice, termine oggi che si adopera, allora non c'era. Non può essere che questo, questo era un po'. E allora su questa base tutte le conseguenze. Vediamo un altro modello, molto rapidamente, inutile che poi casomai ne parliamo. Il secondo modello è quello dell'Opstraet. Opstraet che fece molto, molta fortuna qui nell'ambiente veneto, venne tradotto nonostante fosse proibito, è un scrittore dei Paesi Bassi fine Seicento, riformista, rigorista, jansenista puro, uno dei migliori, più temperamenti, più vivaci, e autore di un libro chiamato Il Bonus Pastor. Bonus Pastor. E qual è il modello a cui si riferisce soprattutto il Opstraet? È questo. Ed è questo. Cristo Gesù è il Cristo è l'archetipo giovanneo. Cioè, è il Cristo Gesù che dà la vita per le sue pecore. Quindi è un pastore eroico, è un pastore che non abbandona il suo gregge, che sta in mezzo al suo popolo e che arrischia anche la propria vita per la propria popolazione. Soprattutto, sotto quale profilo? Sul diritto dei fedeli, su questo punto, cioè obbligo da parte del pastore e diritto nei fedeli, ad avere i sacri riti, ad avere i sacramenti. Questo è molto importante perché il caso si pone quando c'è il rischio, c'è in mezzo al pericolo della propria vita e c'è di mezzo il rischio del contagio. No, siamo alla fine del Seicento, tutto il Settecento è ancora insomma, molto denso di epidemie, di malattie contagiose, di contagi. No, e questo è il problema. Oppure in caso di altre avversità, non so, viene la guerra, una catastrofe, uno sfaceno. Allora il prete che dà la vita per le sue pecore. Di conseguenza il modello sublime è, per questo Opstraet, è il prete martire, è Cristo crocifisso, è l'ascesi austera, è la penitenza, è l'uomo che si mette lo sbaraglio. Ma Opstraet non insiste sull'uno o sull'altra preferenza, cioè se sia più dedito al servizio sociale oppure sia dedito al servizio della parola oppure dei sacramenti. Insiste su un unico principio non può essere autentico prete per l'idea del sacerdote. Questa idea è realtà e la realtà corrisponde all'idea quando c'è una disponibilità interiore, però anche di fatto questo sacerdote si sacrifica per il suo popolo. Quindi il prete povero, il prete nella miseria, abbandonato, eccetera. Questo è il modello. Che fortuna ha avuto? Viene citato da questo Zabeo, però non sembra che abbia avuto una grande risonanza. Si faceva appello all'Opstraet dei circoli allora giansenisti dell'ambiente pavese, l'ambiente anche veneziano, ma non risulta che sia entrato nei seminari, che sia stato. È un libro interessante ancora oggi, si trova in edizione veneziana 1786-87 1783. pieno di esortazioni, ed è specialmente la prima parte dove si fa il confronto tra l'immagine che esiste a vari livelli del prete. Allora c'è un imago, una idea volgaris, c'è un'idea dell'avversario della Chiesa, c'è un'idea media, c'è un'idea sublimis, un'idea sublimior. L'idea sublimior allora è quella del prete, che c'è il contagio, e pur di dare l'Eucaristia, pur di dare la penitenza, va lì e rischia la vita, muore, e prende il contagio pur di non privare questo fedele, insomma, della, eccetera. Oppure c'è la guerra, eccetera. Questa è l'idea, insomma, l'impostazione che ne viene fuori, no? L'idea mista. Bene, poi c'è un altro modello, ed è quello che in pratica portò avanti questo nostro Zabeo a Padova dal 1816 fino al 1828, quando morì. Nel 1820 aveva già pronto una teologia pastorale prospectus, in cui l'autore faceva il confronto tra lo schema del Reichenberger e lo schema suo. Già le due ipotesi. Adesso vediamo dove stanno alcuni punti di confronto e anche di differenza. Poi, nel 1825, dopo un decennio, insomma, di elaborazione, anche e 3 anni di valide censure varie, non so, di esami a vari livelli delle varie inquisizioni, no, imperiali e anche curiali, ebbene, nel 1825 viene pubblicato dal testo ufficiale, imposto in tutte le scuole venete fino al 1859, poi subentra, vi ho detto, l'Anto Berengo, quindi si chiude un certo ciclo. Ora, vediamo questo Zabeo. Zabeo veniva dalla scuola di Barbarigo, vissuto a Padova tra il 1664 e il 1697. Tra il 1685 e il 1690 il Barbarigo introduce una Ratio Studiorum, che molto superficialmente si dice trasposizione e traduzione della Ratio Studiorum dei Gesuiti. In realtà non è la Ratio Studiorum dei Gesuiti, c'è qualcosa di suo e di inedito. Ora, nel periodo in cui studiò a Padova il Barbarigo, per merito del Prioli, cioè tra gli anni 1767-1772, in quel periodo ci fu una restaurazione della regola del Barbarigo, disciplina, e anche della Ratio Studiorum del Barbarigo a Padova, nel seminario dove studiò lo Zabeo. Mentre la facoltà teologica universitaria aveva la sua strada ed era in mano ai regolari, aveva niente da che fare con il seminario di Padova. Ora, in che cosa consisteva la regola, fondamentalmente, e secondo, in che cosa consisteva la Ratio Studiorum? Partiamo dalla seconda. La Ratio Studiorum partiva da questa premessa. Il Barbarigo visse come esperienza tra il 600 e il 700. Siamo nel passaggio, possiamo dire, tra l'umanesimo e l'illuminismo. No. C'è già il grosso dibattito sulla moderna scienza, c'è già allora nel campo teologico il Petavius, no, che pubblica, comincia a pubblicare, ecco, quindi del metodo storico. Bene. C'è già uno sviluppo notevole delle scienze empiriche positive, l'astronomia, Padova aveva il suo binocolo già di osservazione, eccetera. E Barbarigo visse in questa situazione. Quindi, quale fu il suo progetto? Il suo progetto fu questo. Come veneziano, egli riteneva che ormai per Venezia, dopo il 1604, dopo Westfalia, fu presente anche Westfalia e Barbarigo, per Venezia ci fosse un momento già ormai di declino. Sufficienti testi documentano, e dalla seconda metà dell'Ottocento infatti Venezia entra sotto l'ombrello asburgico e abbandona una politica autonoma, diciamo, di dominio del Mediterraneo. Quindi un rapporto tra Venezia e tutto il mondo medio orientale non poteva avvenire se non attraverso un rapporto culturale. Conseguenza di questo suo progetto è che da Padova, quando egli fu a Padova, potevano venire fuori sacerdoti capaci di fare apostolato in mezzo al mondo greco bizantino e in mezzo al mondo greco, no greco, il mondo musulmano arabo. Così, a questo fine, egli fondò una tipografia con caratteri propri per stampare il Corano, e per stampare le opere dei padri in lingua greca, nella lingua sirica, eccetera, eccetera. Quindi c'era tutto un settore linguistico con questo fine apostolico. Poi c'era un altro settore, e il migliore frutto di questo settore è il Toaldo, un prete venuto fuori del seminario, settore matematico, fisico, astronomico. A lui si attribuisse addirittura una certa priorità, insomma, di un binocolo, ma un osservatorio discutibile, ci sono grosse baruffe su questo tra laici e preti su queste priorità. Insomma, comunque l'intenzione c'era, cioè l'intenzione di corsi intensivi di matematica, però fino progressivo, un corso progressivo fino all'ultimo stadio. Quindi questi seminaristi dovevano avere, venire a contatto con strumenti, risultati, libri delle ultime novità, senza limiti, cioè senza remore, questo è interessante, senza remore di natura, di ortodossia, eccetera, eccetera. Ora, il risultato di questo sistema, un gabinetto di fisica, poi un osservatorio nel seminario, e poi un filone di cultura matematica, di cui Toaldo, nel secondo Settecento, è uno dei migliori rappresentanti, anche a livello nazionale, una fama importante. Però, perché questi studi, secondo lui? Perché il sacerdote futuro non poteva ignorare questo aspetto della cultura, questo settore scientifico nel senso più preciso. Ma la sua novità, o se si vuole caratteristica, erano gli studi umanistici. Ora, più che insomma, i libri che egli faceva comprare, la biblioteca che ha fondato, poi libri che ha fatto stampare dei classici cristiani e anche non cristiani, è importante il metodo scolastico. Cioè il metodo scolastico era proprio quello degli umanisti. Cioè l'insegnante è anche un pedagogo. Se è pedagogo, allora l'alunno deve parlare il linguaggio del maestro e il maestro il linguaggio del discepolo. Questo era il concetto. Perciò la trafila per il maestro e per il discepolo, come andirivieni, era questi tre traguardi. Primo, grammaticus, poi secondo, lessicographus, lessicografia, terzo, invece, compositore. Allora c'erano alcune preferenze, Virgilio, per esempio, e poi Cicerone, secondo, anche perché l'aggancio di Virgilio era con coloro che avevano doti, talenti anche poetiche. E il Barbarigo si proponeva anche di coltivare, insomma, questi studi. Invece l'altro, orato, perché doveva diventare orator sacer, il sacro oratore. Quindi, questo è in sostanza la piattaforma. La teologia. La teologia era di tipo tomistico, però studiata alla stessa maniera dei classici Cicerone o Virgilio, quindi grammatica, poi secondo vocabolario, terzo lettura e interpretazione, ultimo saper parlare e scrivere come scriveva il San Tommaso. Va bene, questo sulla linea tomistica è ancora pochissimo studiata, ma era il punto chiave della formazione teologica. Mentre per la parte biblica, in sostanza fu una parte piuttosto lasciata fuori, perché prevalse la linguistica nel settore umanistico, letterario, cristiano e pagano, e non quello biblico, questo per quanto riguarda. Ora, qual è stato il risultato di questa insomma, formazione avuta dallo Zabeo dentro in questo seminario? Il risultato fu questo, che per quanto si riferisce alla cura d'anime, l'idea dominante era che la cura d'anime fosse anzitutto, più che una scienza di tipo induttivo o deduttivo, fosse essenzialmente un'arte. Però su quali basi, ecco, su quali strumenti, su quale cultura, su quale anche modelli veniva così nucleata questa concezione? Veniva nucleata fondamentalmente andando a ritroso, cioè partendo dai tempi nostri, andando indietro, facendo questi passaggi. Allora, il primo passaggio è San Tommaso, considerato l'ultimo dei padri della Chiesa, l'ultimo e il più rappresentativo, come colui che ha fatto la sintesi, e questo si spiega nella concezione Barbarigo, no? Che pensava alla mediazione, l'incontro con il mondo arabo, si spiega San Tommaso mediatore dell'Aristotele, per Aristotele sono filtrato attraverso il mondo arabo. Questo sono, quindi è curioso e interessante che l'epoca patristica finisce con San Tommaso. Poi andando indietro, il ponte subito è San Bernardo e un altro ponte subito è San Gregorio Magno. E San Gregorio Magno è il punto di riferimento chiave per l'impostazione pastorale. Cioè non c'è pastore d'anime che possa superare il modello, l'ideale presentato da San Gregorio Magno. E San Gregorio Magno, lo Zabeo ripete mille volte questa idea, questo concetto, San Gregorio Magno definì la cura pastorale come ars artium, quindi essenzialmente è un lavoro intuitivo, di intuizione, creativo, che non soggiace a nessuna costrizione, nessuna determinazione, diciamo, né logica scientifica, no, razionalista secondo la mentalità viennese, ma neanche poi di tipo materiale o di altro genere. È continuamente un momento inventivo, come è inventivo il momento di Kairos, diciamo, di Dio con l'uomo. Cioè, di volta in volta, cambiando la situazione, c'è un impatto nuovo tra Dio e l'uomo e l'uomo e Dio. Questa è un'intuizione di fondo, no? E Zabeo rimane dentro questa concezione. Tanto si rafforza questa concezione che dopo si va indietro nel tempo. Allora, chi si trova come un altro ponte? È Sant'Agostino. Sant'Agostino, ultimo ponte. Meno invece sono gli orientali, i greci hanno meno significato per la cultura di questo Zabeo. Non so, questo direi è un punto molto importante, perché allora qual è l'immagine ideale che viene fuori, insomma, da un Barbarigo e poi anche da uno Zabeo? È il Christus Docens. Docens è fondamentale, però anche il Christus Pauper, ecco il secondo. Terzo elemento, che è l'orator sacer, che rispecchia il primo momento Docens. Poi, così pure è l'altro, è l'uomo che vive in mezzo agli uomini. Cioè, non so se avete letto la regola di San Gregorio, ma adesso qui non vorrei insistere molto, ma il punto centrale di San Gregorio è questo, che c'è una disponibilità interiore del sacerdote di entrare in sintonia, fra tutte le categorie, no? Con l'uomo nella situazione, in qualsiasi situazione spirituale o morale, oppure anche fisica sia. E quindi tutte le categorie, coi poveri, come tratta, coi ricchi, come tratta, con i potenti, con quelli che sono i magistrati, poi per uno che è arrogante, per uno che è umile, per uno che è tapino, per uno che è scoraggiato, per uno che ha speranza, ecco, che tipo di rapporto, no? In tutti i suoi capitoli, Gregorio Barbarigo, no, introduce, non da regole, ma dà delle intuizioni, cioè l'ipotesi futura dell'incontro del sacerdote con i fedeli non è uno stereotipo, non è un modello fisso, ma invece è l'infinità delle variazioni delle situazioni in cui si trova l'uomo. Questa è l'intuizione che viene fuori da uno Zabeo, che era già nel Barbarigo. E di conseguenza, sia il prospectus del 1820, sia sul secondo punto, l'Istituzio Teologia Pastorale 1825, di fronte al problema teologia pastorale, scienza e o arte, la risposta dello Zabeo è per teologia pastorale arte, e a dimostrare arte, opera artistica, creativa, inventiva, questo è il suo progetto. Ora, come poteva andare avanti un libro che in pratica dalle radici spiantava tutta l'impostazione che veniva da Reichenberg, veniva quindi da Vienna? Com'era recepibile, insomma, un progetto del genere dentro uno schema? E questo è il mio anche grande problema, al quale ho tentato di dare delle risposte. E ho tentato. E allora la risposta l'ho trovata non tanto nel libro, quanto da un altro inedito dello Zabeo. E questo inedito è di ben 570 pagine, e contengono talvolta ripetute e rifatte le lezioni, 129 lezioni che questo Zabeo ha fatto, tenuto all'università, no? E lo Zabeo trasferisce il problema sulla scientificità, e il grosso dibattito, no, allora in quell'epoca, 600-700, tutto 700 dibatte, là, il carattere scientifico di un discorso teologico. No, era un dibattito, cioè si chiama anche discorso delle scorte, le dice lui, oppure delle fonti, oppure terzo anche dei loci teologici, no? Questo era il grande dibattito. Ora, per trovare la fondatezza, diciamo, lui diceva non della teologia come pastorale, come la fondatezza della teologia come scienza, della teologia, per trovare la giustificazione scientifica della teologia come arte, egli osserva che la tesi sua, l'ipotesi, è sostenibile in un modo scientifico, ecco il punto, è scientifico il modo di fare pastorale alla maniera artistica, non alla maniera scientifica, secondo il laboratorio di Vienna, perché le scorte su cui si basa danno ragione pienamente a questa impostazione artistica della pastorale e non scientifica. In altre parole, qui casomai poi lo vedrete questa cosa quando uscirà fra non molto, fra 3-4 mesi, dove ho fatto tutte le documentazioni. Per poter allora dare, insomma, accertare un tantino questa impostazione, io ho fatto un lavoro di confronto, cioè ho filtrato il libro di Reichenberger nella sua edizione di 5 volumi e poi nell'edizione di 2 tomi. Il primo 5 volumi era la prima edizione fatta per Vienna. I 2 tomi in latino erano per le scuole anche di seminari diocesani, cioè agganciati in quella maniera, eccetera. Allora ho fatto prima questo schema, ho affrontato primo contenuti del primo e l'altro schema. Secondo, le giustificazioni scientifiche di un'impostazione di questi contenuti, le basi, cioè scientifiche, i fondamenti, e poi il metodo teologico. E così, la stessa maniera, per lo Zabeo con il suo prospectus, che quello già mi orientava molto, poi secondo il suo manuale del 1825 e ultimo il suo inedito, le 530-40 pagine dell'inedito. Ecco, ho fatto questo raffronto. E soprattutto ho cercato di vedere, e questo mi è servito molto per capire le differenze anche radicali che non appaiono al momento, perché c'è proprio lì un continuo gioco, no, sul una giustificazione scientifica del modo artistico di fare pastorale e invece una giustificazione scientifica di fare pastorale alla maniera scientifica. Questo era il punto chiaro. Allora, dove si trovano dei punti, sono punti di differenza, sono sottili, se volete, è molto importante. Per esempio, fonte prima per l'uno e per l'altro la Bibbia. Bene. Allora, per Reichenberger, prima viene il Vecchio Testamento, trattato scientificamente, teologicamente, poi viene il Nuovo Testamento, no? Va bene. Per Zabeo, prima viene il Nuovo Testamento, le intuizioni del Nuovo Testamento diventano criteri di lettura del Vecchio Testamento. Cioè, il Nuovo seleziona il Vecchio. Tanto, insomma, poi andiamo avanti, un altro punto chiave, ce ne sono 7-8 i punti, no, che si possono confrontare. Uno dei punti è la ratio, dove sta? Ratio vuol dire, cioè, motivi pedagogici, motivi didattici, la filosofia, eccetera, no? Tutte le scienze attinenti all'uomo per un antropocentrismo nell'impostazione, diciamo, della pastorale, eccetera. La ratio dove sta? Nell'una parte e anche nell'altra. Allora, per Reichenberger, ratio è un elemento, criterio fondante il raziocinio teologico, quindi anche la teologia pastorale. Fondante, necessario, essenziale. Invece per lo Zabeo è invece un elemento ancillare, un sussidio marginale. Allora dove viene fuori per esempio conflitto, quindi è fuori una mentalità giuseppina anche molto raffinata? Viene fuori per esempio quando si invoca il principio d'autorità. anche voi potete farlo il lavoro, perché tanto sono libri che sono stampati, no? Allora, dov'è il punto chiave? Uno dei punti chiave. Il confronto tra diritto canonico, visto come legge universale della Chiesa, e diritto ecclesiastico. No, lo dice molto chiaro. Diritto ecclesiastico, simbiosi di legge della Chiesa con le consuetudines locali attraverso la interpretazione ufficiale del potere politico, sovranità politica. Il risultato è la legge, la norma di questa simbiosi che si chiama legge ecclesiastica, ecco, non soltanto per focalizzare il discorso, no? Il punto. Ebbene, allora, nella scaletta delle cosiddette fontes, o dei fontes, oppure anche delle scorte, questa norma è decisiva per la scientificità della pastorale. Cioè, a un certo momento il pastore d'anime vuole verificare, diciamo, anche la sua onestà professionale, no? Come la verifica? In rapporto a che cosa? Quando può dire io faccio bene, faccio male, non so, c'è il caso, lo do o non do la soluzione a quello, non soltanto per accennare. Oppure matrimonio, lo faccio o non lo faccio? E ci sono i famosi impedimenti, no? Discussi, non finire. L'approccio, insomma, un incontro è venuto nel 55, non c'è un accordo preciso su questo, c'è un dissidio profondissimo sul modo di fare. Ebbene, allora, quando è, diciamo, è pastorale autentica, oppure invece è una, insomma, estrapolazione, ecco, questo è il discorso vero. Allora Zabeo non ha dubbi, dice diritto canonico, legge universale, così pure interpretata ufficialmente dalla, cioè, il Santo Padre, non so, e poi così pure i concili universali. E così pure, sotto questo punto, Zabeo determina una gerarchizzazione, cioè derivazione e subordinazione sotto questo profilo delle varie normative a livello ecumenico, universale, a livello poi nazionale, oppure a livello, insomma, generale, poi a livello locale, provinciale e poi finalmente a livello locale, cioè sinodale. Allora dice, se questa norma locale, ecclesiastica oppure canonica, di un vescovo oppure di un principe, va bene? Dissente e fuori dalla legge universale, conta la legge universale. In coscienza il pastore deve optare per questa legge universale. Ecco, so, offre tutta questa impostazione. Così pure un altro tema molto interessante, no? È l'uso dei padri della Chiesa. E qui è molto più evidente la duplice impostazione. Perché? Chi sono i padri della Chiesa? Questi autores probati. Autores probati, una delle fonti importanti, no, per formarsi un criterio, un giudizio di criterio di un campo morale, anche nel campo teologico, poi anche nel campo pastorale, quindi, no, dovendo fondare una scienza, insomma un discorso teologico anche in campo pastorale. Gli autores probati, secondo il Reichenberger, non escludi il padre della Chiesa, però dice il padre della Chiesa sono un altro mondo, sono autores probati del secolo III, secolo IV, e quelli non, è un altro mondo, non ci dico. Vanno trattati scientificamente, lì contano contro l'archeologia, contro la filologia, contro la storia. Bisogna conoscere, riportarsi in quell'ambiente. Non possiamo invocarli noi, trasferire, ecco, il ragionamento che viene fatto in questo. E invece gli autori sprovati quali sono? Sono i pastoralisti dell'epoca moderna, per loro contemporanea. E chi sono? Allora tutto l'elenco dei protestanti, no, che hanno trattato il problema con gli uomini del 1771, del 72. Sono i pastoralisti obstreit, ci sta bene, ma è messo nell'indice, ma non c'entra, perché è un autore, è un autor che ha scritto, ha documentato, ha fatto un raziocinio, eccetera. Non so se, ecco, allora a questo punto, scienza o arte, no, voi capite subito, insomma, che lo Zabeo, lui dice, sì, io anche lo dice nel prospectus, nel 20, faccio scienza, ma scienza intesa in questo senso che ha tutte le ragioni, tutti i logici teologici sono a suo favore, a sostegno di una pastorale intesa come arte. Non so se questo è il concetto suo. Allora, in contrapposto invece dell'altra impostazione, Reichenberg, il quale riteneva che non soltanto per una scientificità della pastorale intesa in senso proprio operativo, ma anche per la scientificità dei contenuti, per la scientificità dei metodi, quindi anche per la mutazione, mutazione insomma, di argomentazioni e la fondazione e fondatezza insomma, di questo tipo di impostazione con criterio scientifico, però criterio scientifico inteso in senso moderno, inteso nel senso seicentesco, cioè torniamo a quel binomio, come già vi ho accennato prima, fondamentale, cioè storia e ragione, come punto di riferimento molto concreto per poter impostare una, anche una, insomma così, azione pastorale, diciamo, razionalizzata, moderna, organizzata, eccetera, eccetera. Beh, ma io direi, basta, qui avevo anche altre cose, ma mi chiedete, vedremo. Ho anche l'intenzione di sviluppare un po' di più ancora in altri saggi questi lavori, perché ritengo di un certo interesse, abbastanza importanti, perché dopo no, c'è l'altro problema del diritto canonico, cui già accennato il professor Ferrari, anche quello è un altro punto chiave, cioè per capire la peculiarità, così dare anche una maggiore, così, maggiore insomma, fondatezza anche nel discorso storico, cioè nell'interpretazione di questo nostro clero. No? Noi sentiamo ripetutamente anche da qualunque parte che il clero qui nel Veneto ha avuto un peso enorme, no? Facilmente ci sono facili giudizi anche sulle responsabilità che questo clero ha avuto in senso negativo, in senso positivo. Ecco, io vorrei capire un po' di più alle radici, cioè io credo non si può banalizzare dicendo beh, quello è conservatore, quello eccetera. Credo che sotto ci sia un discorso più profondo e più complesso che già comincia ad affiorarmi, complesso e vasto e per certi aspetti inafferrabile, anche mi sfuggente, no? Proprio dall'analisi di questi temi, di questi uomini, di questi sono maestri. Un altro tema interessante sarà quello della pedagogia. Adesso se sta interessando il professor De Vivo, che è uno specialista da noi di studio di storia della scuola, eccetera, e sta tentando di scavare anche su questo terreno. Andando avanti si potrà forse fare anche un confronto un po' più documentato. Questo è il risultato di questo primo un po' confuso e faraginoso approccio.